radio è molto più forte. È sempre così, ormai non c'è più nessuno tra questi. Tutti si sono staccati e non pensano più nessuno, fa uno così, ma uno, due al giorno, non di più. Non è questione del caldo, no. Questione che la gente non ne ha più voglia. Non ha più voglia nessuno di parlare al barattino, voi. Ormai è finito tutto. Il gioco non c'è più. Ma perché tu sei convinto che in questo momento non ci sia gente che si è ascoltata? C'è la gente che si ascolta, ogni tanto mandano la portante, però non hanno voglia di parlare, capito? Anche se li sento lì che avanti, entrano, nulla lo fa, non entrano, non ne hanno voglia. E lo stesso anche lui poco entra, ogni tanto così fa sentire, magari ti manda qualche cosa così alla ruota, manda qualche fotografia per far vedere, per farti vedere che sta mangiando cose buone, per numero che a lui piacciono. Però il barattino non entra quasi più, una volta ogni volta di pappa anche lui. Ok, anche lui non lo sta pensando pochissimo, sta pensando ad altro, sta pensando. Non gli interessa più nemmeno una banda radiomatoriale, no? Anzi, se sta smontando tutto, deve smontare anche le antenne, se c'è un po'. No, ormai è finito, Francesco. Ripeto, in questo momento c'è gente che sta ascoltando, ne sono più che sicuro. Solo che non ne hanno voglia di entrare, di parlare, evidentemente, o non sanno cosa dire, vogliono dire. Perché? Perché in tutti questi anni che abbiamo letto tutto, per cui ormai non hanno più piatto per parlare. L'ho staccata, l'ho tolta, parlando con un dipolo verticale, parlando, autocostruito, e poi è molto in basso, non è più scatenato. È interrato per un po', per cui non è piatto più in alto, non vuole fare niente, perché intanto se non c'è nessuno, è inutile fare l'abuglio inutilmente, è cosa per parlare con chi, col muro. Ormai la gente fanno così, come fai tu, invece faccio io, le fanno anche gli altri. Ormai magari attendiamo se non guastarsi la palizza, però poi in definitiva nessuno parla, e dunque se non abbiamo voglia e la palizza attendiamo lo stesso per non guastarsi, però rimane molto perché nessuno parla. Beh, quello sì, ma in lui la facciola che è logico, perché però non sta rilevato 47 anni attaccato al baracchino, non è che dal 1972 quanti anni sono passati già, sono quasi 46 anni e mezzo, e anche oltre 46 anni e 8 mesi, per cui si può immaginare la passione che se non ci sarebbe stata non sarebbe stata sempre attaccata lì. Però a comprare non costa niente, non fa nemmeno per idea. Se non c'è nessuno, cosa compri a fare? Spendere e buttare? No, si è abbassato lo che ho, e la voglia. Per cui la gente entra, un giacchero, le apparecchiature a sparare, va bene. Però ho mandato fuori, no, non ne vale la pena. Guarda, ripeto, come ho detto poc'anzi, con 160 euro se ne ha comprato uno abbastanza buono, è importante, è un superstar, se l'ha comprato Antonello, quello di Ursi, e fa tutto, addirittura fa roba di 350, 360 canali, ma a parte quello non è così importante perché intanto non, insomma, fa da 25 fino a 30 mega, praticamente fa i 400 canali, ma a parte quello ha anche altre funzioni, un sacco di funzioni. Superstar è un ultimo apparecchio e va benissimo, c'è il bipi, c'è l'eco, ha 40 watt di potenza, insomma è costa per 160 euro, 164, quello da Tesla. Superstar che dice 9, guarda il computer, dice, se ce l'ha il computer, scrivi Superstar. Con tutto, insomma, va bene, tanto per andare a buttare su di a guardare il continente, non ne vale la pena. Anche in PMR, insomma la gente era tutti i giorni in PMR, a tutte le ore, andato col fronte alla televisione, che c'era la partita, c'era. E allora era la scorta, ho abbassato il volume e poi ti avevo sentito a te fischiettando lì, infatti ti avevo chiamato, ma io stavo guardando la partita prima, adesso è finita comunque. E la gente è così, ripeto, alla scorta, ce ne sono più di uno, più di due, più di tre, di sicuro. Però non entrano, pazienza, lasciamo il fare. Quando si decideranno, come ti ho detto un attimo, già entreranno, se vogliono entrare, se no facciano quello che mi offrono, ok? Perfetto, ma io avevo sentito da un altro che quello di oggi ci aveva comprato la Nittone, io non lo conosco da parecchio poco. Vabbè, se l'ha preso comunque questo Anitone, non Superstar, non lo so, vabbè, io ho sentito quello di Anitone, non Superstar. Vabbè, comunque, se va bene a lui, va bene anche a me. Roger, io se mi compro baracchini, cavolo, faccio dei baracchini, io mi compro parecchio come si deve, non baracchini, ok, spendo soldi. Non si deve, non baracchini, perché non ne fai il baracchini? Ok, tu mi dirai, ma sono le buttate, che non se ne frega, tanto se non le butti da una parte le butti dall'altra, tanto buttate lì, meglio che stare in banca, i soldi vogliono farti girare. Ok, perfetto, non so, è così. Benissimo, a te di nuovo il cambio, io faccio qualche altro passeggero, però con lo stesso chiudo, dai. A te il cambio, benissimo. Ok, sì. Sì, Anitone, sì, ma è quello, guarda, poi io so per te. Quello che ti sto dicendo, Anitone è un modello super tar stesso, per cui è uguale più o meno, ma in genere viene rimasto, ma i super tar sono tutti uguali, no? Poi fa anche 10 metri, ti puoi immaginare, addirittura fa dai 10 agli 11 metri, fa quello che ti sto dicendo, 6.009. Se ce l'hai il computer nel telefonino, prova scrivilo e guardalo. Non so se nel telefonino c'hai il computer, io ce l'ho, dunque è un computer anche quello. Ma per dire, no, non è un problema. Sì, è vero, una vittoria è quello, è praticamente simile, dai, è quasi preciso. Ma è sempre quello, anche quello è superstar, la vittoria è superstar lo stesso, capito? Ah, ok. Ho capito, benissimo. E l'ultimo stesso potremmo far sentire, no? Due chiacchiere, invece manco lui si fa sentire. Ok, insomma, parecchio non lo sento. Sono da parecchio tempo, addirittura anni che non lo sento, non giorni, non certo ce l'hanno qualcuno qui a Sassi, ce l'ha anche Marco, Marco ce l'ha alla Energy, ce l'ha Natalino, però Natalino non modula più ormai, perché gli avevano sequestrato il baracchino, gli avevano sequestrato, perché stava facendo interferenza a un paio di persone che abitavano vicino al Dubbio e dunque sono andati e gli hanno sequestrato e gli hanno fatto anche la multa. Per cui non sta molto modulando. Ma è così, in effetti è così. Quindi piuttosto, ma Gianni non si è più sentito, cos'è fuori Sassari, fuori di Sardegna? No, già è qua, e anche lui dove sempre che si fa sentire, dove sempre. Se ne frega, non è quello che mi interessa. qualcuno vuole parlare, io sono qua a rispondere, se no pazienza. Ripeto, non è il baracchino che mi dà da vivere, invece sono altre, è un'altra situazione, per cui no, non è quello. No, pensavo che Gianni lavorasse in continente, capito? Perché lui l'aveva volte ha detto che era fuori dalla Sardegna. Non lo so che cosa fa, boh, se fa pompiere, se fa il militare, poi da me sono quello, boh, non lo so. Comunque, poco mi interessa, se non è a voglia nemmeno lui, che non è. Poi, quando ha voglia già siamo qua, se c'è qualcuno a rispondere, perché mi sa che anche lui ne ha meno voglia degli altri. E quello stesso, c'è un sacco di apparecchiature, c'è un sacco di apparecchiature. Già è qua. In passato c'era Swing in continente, era su continente, era diciamo militare, ok. Stava e dopo ha finito e se ne è ritornato qua in zona, ok. Perfetto, è così. Giovane, già ne ha tempo, se si deve sposare già ne ha tempo. lui, quello sono problemi suoi, lo saprà lui quello che deve fare, no? Non lo sappiamo noi. E vabbè, lo so che è un animatore, è diventato un animatore, quello già lo sapevo, ma mi sa che anche in quella categoria lì stanno diminuendo molto. Tu pensa che in Sardegna prima c'erano 450 radioamatori, prima in Sardegna, adesso ci sono appena 200 radioamatori, si può immaginare, anche lì stanno diminuendo così a vista d'occhio, non credere che sia più come prima, no? Poi riprendi. Magari qualcuno sarà morto anche, capito? Magari qualcuno sarà morto, magari qualcuno si è stufato, si è avvenuto tutto, che questo, che altro, e niente, io me ne sono accorto già che anche in quelle frequenze lì la situazione è calata parecchio, ma parecchio, parecchio veramente, ok, non c'è, scappa. Anche al link nazionale CISAL, lì, anche lì, la situazione è critica, c'è gente anziana, c'è uno lì della zona di Firenze, di centro Firenze addirittura, e lo mantiene ancora, è più grande anche di me, ha voglia, quello c'ha almeno 80 anni e anche di più di 80, ok, capito, gente, tutta la gente di una certa età, 80, 85 anni, 90 anni, capito? Giovanilità non ce n'è, tutta la gente di una certa età. Scappa, e niente, ma spariti quelli, anche quella frequenza lì è morta lo stesso, perché non c'è nessuno. Innanzitutto c'è qualcuno maleducato anche in quella frequenza lì, perché l'ho usato? C'è qualcuno maleducato, lo fa lo spiritoso, cerca di andare a rompere le scatole agli altri, a chi vuole farsi due chiacchiere in santa pace. A me lo stesso, questa cosa mi dà molta fastidio. Ok, Roger, io lo sono patentato, però mi danno fastidio lo stesso anche se mi permetto di ascoltare, capito? Ecco, quando io ti dico che lo toglierei fuori di mezzo così non lo troverete più nessuno, perché non batteri di sicuro. Ma scherziamo, perché io tanto mi vuole fare due chiacchiere in frequenza e c'è qua questo stupido ignorante che viene a disturbare, diciamo, gli altri che vogliono farsi due chiacchiere, diciamo, in santa pace e passare, diciamo, qualche minuto, diciamo, di relax, diciamo, in frequenza. Roger, io la vedo sbagliata e sicuramente sarà anche così per te, perché è così sicuramente, e niente. Roger, attendo quel cambio, io qualche altro passeggero, un altro e con quell'altro ti saluto. A te il cambio. Ok, Roger, infatti è così, ormai lo sappiamo benissimo che anche lì sono diminuiti moltissimo il numero di persone che appunto entravano in quelle frequenze, eccetera. Sì, è vero, naturalmente ce ne saranno, che saranno anche deceduti, però ce ne sono anche nuovi, tutti gli anni ce ne sono nuovi qui in Sardegna che vengono promossi, ma il numero non aumenta più di tanto, anzi sta sempre diminuendo. Un po' perché ci vogliono tanti soldi per interessare in quelle frequenze, perché se non hai attrezzature come si deve non vai da nessuna parte, incominciando da antenne che costano una barca di soldi, le radio poi non ne parliamo, che costano parecchie migliaia di euro, per cui il discorso è così e non credo che ci sia molta gente in della lista qui in Sardegna da poter dibuttare così con la crisi che c'è, ui, lasciamo perdere. Comunque, ripeto, a me non me ne frega più niente di niente. Quando non c'è più nessuno, pazienza, non parlo con nessuno, parlo, faccio una passeggiata e ciccia, e dunque, va bene lo stesso, anzi va meglio, va addirittura meglio. Capito, Francesco? d'accordo con te, ci sentiamo là alle prossime quando, quando capita, se, se coincide qualche altro giorno già ci sentiamo. Ciao Francesco, saluto io alle prossime, dai. Grazie per la chiacchierativa, ciao, ci sentiamo, ciao, chiudo.